città d'origine, puntino dell'Italia che non vedi. 20 anni che ci vivo come milite, calpesta con i piedi ogni simile. Scrivo come cimici ogni vigile, scrivendo 1000 pagine. Cerco nuova immagine come un baco da seta che diventa una farfalla senza regole, una mantide. Resto al margine, la giro dal mattino dentro le sue labbra morbide, gustose come fragole. Piccoli su piccoli, giornali, spasti, articoli, cunicoli, bambini. Fumo dai tombini, dai camini, case abbandonate, fabbriche dismesse, macchine rubate, marocchini alla stazione, nella city. Attraverso il lura speranzoso di un futuro come oro, nella city di Saronno, la città del sonno. Voglio una maretta ed un biscotto, una cultura che non scordo, no. This